Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Emergenza Covid, governo al lavoro su un protocollo per le nuove regole nelle regioni. Speranza invita a evitare spostamenti inutili. Piemonte e Liguria via con la didattica a distanza al 50% alle superiori. In Lombardia varato il coprifuoco dalle 11 di sera alle 5 di mattina. Recovery Fund per il primo anno, risorse disponibili maggiori rispetto alle previsioni, così il ministro dell'economia Gualtieri a Radio 24. Al via le demolizioni di altri 8 tra capannoni e villette dei Casa Monica a Roma, Raggi avanti con la legalità. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Governo dunque a lavoro, come avete sentito dai titoli, su un protocollo che stabilisca linee guida per fissare le regole comuni da seguire per le misure restrittive che le varie regioni stanno mettendo a punto in queste ore. Poco fa, la notizia di pochi minuti fa, la Lombardia ha chiuso con l'ordinanza che vara il coprifuoco dalle 23 di sera fino alle 5 del mattino. Ne parleremo tra un attimo, ma riprendiamo appunto il discorso sul filo di questo protocollo che il governo sta mettendo a punto per dare un quadro generale a tutte le varie ordinanze locali. Il governo è al lavoro su un protocollo da seguire per le strette anti-Covid decise in ambito locale. Il documento stabilisce criteri generali che serviranno a coordinare le ordinanze di governatori e sindaci, molti dei quali negli ultimi giorni hanno annunciato misure più restrittive rispetto a quelle in vigore a livello nazionale. Palazzo Chigi stamattina non conferma invece le indiscrezioni di stampa secondo le quali si andrebbe verso un nuovo DPCM. Su quello varato la scorsa settimana il premier Conte riferirà nel pomeriggio in Senato. In Lombardia intanto è atteso a breve il via libera all'ordinanza che stabilisce il coprifuoco dalle 23 alle 5 di mattina a partire da domani. La firma è slittata di qualche ora dopo la frenata arrivata ieri dal leader della Lega Salvini, che non convinto della necessità della misura ieri ha voluto incontrare il governatore Fontana, un intervento giudicato un'ingerenza e duramente criticato da PD e Movimento 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito delle misure locali, si è mossa la Campania, dove da venerdì scatterà la chiusura generalizzata dopo le 11 di sera. C'era già questa mattina l'ordinanza del Piemonte e da poco invece è stata emanata quella relativa alla Lombardia. Facciamo il punto allora su tutte queste varie iniziative con Rosanna Magnano. Rosanna. Buongiorno, sì, come dicevi è stata appena emanata in Lombardia l'ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della salute Roberto Speranza, che prevede il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 23 ottobre fino al 13 novembre. Sono consentiti con autocertificazione solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o urgenza o per motivi di salute. La decisione è stata presa per la criticità della curva dei contagi, che ieri ha segnato oltre 2.000 casi, la metà a Milano, dove il sindaco Beppe Sala ha invitato gli over 65 a restare a casa. Intanto si registra un boom di contagi anche in Veneto, 1.422 in un giorno, però spiegano per un riconteggio di 6 giorni su Venezia. Anche le altre regioni, come dicevi, più colpite dai contagi corrono ai ripari. Il Piemonte chiude i centri commerciali nel fine settimana, c'è un coprifuoco anche in Campania sul modello lombardo e limitazioni negli spostamenti tra le province. Mini zone rosse a Genova. E resta invece un po' in stand-by il Lazio, dove 30 ambulanze del 118 sono bloccate davanti diversi pronti soccorso e dove in un anno le chiamate al 118 sono aumentate del 10% e una su 4 è per Covid. Per ora è tutto. Grazie Rosanna Magnano, sentivamo l'invito del sindaco di Milano Sala agli over 65 a restare a casa, inviti del genere ma anche più generalizzati arrivano anche dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro e dal ministro Speranza, chiedono di limitare il più possibile le attività non necessarie. In pratica, anche se non c'è un'indicazione, un obbligo da parte del governo, dalle autorità sanitarie arriva l'invito a limitarsi a scuola e lavoro. E intanto, secondo l'INAIL, proprio sui luoghi di lavoro hanno raggiunto il numero di 54.000 le denunce per i casi di contagio. Sentiamo. Ripartono i contagi Covid sul lavoro, sono oltre 54.000 le denunce registrate dall'INAIL a settembre, quasi 2.000 in più rispetto a fine agosto. In crescita anche i morti denunciati, 319, 16 in più rispetto ad agosto. I casi Covid rappresentano il 15% circa del totale delle denunce di infortuni sul lavoro pervenute dall'inizio dell'anno, con un'incidenza del 17% rispetto al totale dei contagi, concentrati soprattutto nei mesi di marzo e aprile. Le donne si contagiano di più rispetto agli uomini, ma muoiono in percentuale minore. 8 denunce su 10 dei contagi di origine professionale riguardano regioni del nord. La Lombardia si conferma la regione più colpita, Milano la provincia in testa per contagi, Bergamo per decessi. Sanità e assistenza sociale il settore più colpito, seguito dalla pubblica amministrazione. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, la pagina economica. I fondi del recovery per il primo anno potrebbero essere superiori alle aspettative, lo ha detto il ministro dell'economia Gualtieri a Radio 24. Gualtieri ha parlato anche del MES, ha detto: sì, sono favorevole, ma il vantaggio non è 37 miliardi, ma sono gli interessi che si risparmiano, 300 milioni di euro l'anno. Sentiamo. La ripresa sarà migliore se si riuscirà a frenare la diffusione del coronavirus, dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, confermando le stime di una crescita superiore al 13% nel terzo trimestre e un PIL a meno 9 a fine anno. Dopo le polemiche e le divisioni della maggioranza, Gualtieri si dice favorevole al meccanismo europeo di stabilità, uno strumento che non presenta alcun tipo di condizionalità, spiega ai microfoni di 24 Mattino, ma, dice, il beneficio non è di 37 miliardi l'anno, ossia la quota di risorse che l'Italia può chiedere per la sanità. Spiego un fatto tecnico che forse non tutti hanno del tutto chiaro e che il Presidente del Consiglio ha spiegato, che il beneficio per l'Italia dell'utilizzo del MES non sono 37 miliardi aggiuntivi, ma sono il risparmio in interessi, esattamente come il grosso della quota di prestiti, dice 300 milioni all'anno. Ovviamente per un ministro dell'economia anche 300 milioni all'anno sono una cifra significativa. Le risorse del Recovery Fund, aggiunge inoltre Gualtieri, potrebbero essere più alte per il primo anno per dare la possibilità agli stati di affrontare l'emergenza scatenata dal coronavirus. E sul fronte fiscale, il ministro dell'economia afferma che grazie alla riforma e alla rimodulazione del sistema, la riduzione IRPEF sarà di un certo rilievo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca: la Corte d'Assise di Caltanissetta ha condannato all'ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro per le stragi del 1992 di Capaci e di Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino e a tutti gli agenti della scorta, disposti anche i risarcimenti fino a 500.000 euro ciascuno ai parenti delle vittime e di 100.000 euro per i tre superstiti degli attentati. Continua la battaglia per riportare la legalità a Roma. Così la sindaca della capitale, Virginia Raggi, ha commentato le nuove operazioni di sgombero e abbattimento per 8 tra capannoni e villette abusive riconducibili ai Casa Monica, alla Romanina. Una villa patronale, 7 abitazioni e un capannone circondata da un enorme giardino con palme, piscina e poi vasca idromassaggio, champagne di pregio, vasellame ricercato. È quello che si sono trovati davanti agenti di polizia e vigili urbani questa mattina all'alba in via Fratelli Marchetti Longhi tra la Romanina e Ciampino. Un'operazione di sgombero e abbattimento di villette già confiscate nel 2011, affittate ora abusivamente a famiglie di immigrati. Ultimo presidio abusivo di Casa Monica, famiglia Sinti di origine abruzzese, è arrivata a Roma negli anni 70. Già 2 anni fa avvenne lo sgombero di altre 8 villetti del clan nel Quadraro. Per l'operazione di oggi in campo circa 100 uomini. Al momento dell'arrivo c'erano 13 persone, una delle quali trasportata in ospedale con sintomi di febbre e tosse. Sul posto anche la sindaca Virginia Raggi. Mi sembra che l'azione sulla legalità e sul ripristino della legalità stia andando avanti. facciamo capire che lo Stato c'è, lo Stato non arretra. Sicuramente i tempi sono, come dire, importanti, perché bisogna effettuare tutto nel massimo rigore, ma una volta che le procedure sono completate si va avanti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. A Modena un uomo di 53 anni, i suoi figli di 24 e 30 anni sono stati arrestati dalla polizia su ordine del GIP con l'accusa di tentato omicidio aggravato, la discriminazione e odio razziale nei confronti di un ragazzo di 22 anni originario del Burkina Faso. Il giovane straniero sarebbe stato vittima di una spedizione punitiva durante la quale i tre lo avrebbero colpito a bastonate, poi con un macete, mentre veniva coperto di offese razziste come tornatene al tuo paese, qui comandiamo noi. Adesso invece una notizia che arriva da Bruxelles, dove c'è un primo accordo per quanto riguarda la politica agraria comune. Una grande soddisfazione è stata espressa stamattina da parte della ministra italiana Teresa Bellanova. Sentiamo di cosa si tratta. La trattativa non è chiusa, ma le basi ci sono. Dopo oltre 2 anni di negoziati, infatti, il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura ha raggiunto un accordo sulla futura politica agricola comune. Abbiamo assicurato un buon equilibrio tra sostenibilità e sicurezza alimentare, ha commentato la ministra tedesca Klöchner. Almeno il 20% della dotazione nazionale degli aiuti diretti dovrà essere dedicata, infatti, a incentivi per pratiche agronomiche verdi. Molto soddisfatta la ministra italiana Bellanova. L'intesa segna un'evoluzione storica, dice, perché i fondi europei per la prima volta saranno assegnati in base ai risultati raggiunti, anziché al mero rispetto delle norme di conformità. L'accordo prevede che ogni Stato membro presenti un piano strategico nazionale per la definizione e l'attuazione di tutti gli interventi. Per l'Italia, sostiene Bellanova, significa la possibilità di attuare interventi nel settore dell'olio d'oliva, per i produttori danneggiati dalla xylella, ad esempio. Ma come dicevamo, la trattativa non è chiusa. L'accordo va ora negoziato in trilogo con la Commissione e il Parlamento europeo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 70 opere d'arte e anche pezzi antichi sono stati danneggiati in un attacco ad alcuni dei prestigiosi edifici dell'Isola dei Musei a Berlino. Sentiamo. 70 opere d'arte sono state sfregiate in un attacco sferrato all'Isola dei Musei di Berlino, un complesso di straordinario valore che ospita alcuni tra i più importanti capolavori dell'Occidente antico e moderno. Nell'agguato, che secondo la Bild Online risale al 3 ottobre, giorno dell'anniversario della riunificazione tedesca, ed è avvenuto al Museo di Pergamo, all'Alte Nationalgalerie, al Neues Museum, è stata spruzzata una sostanza oleosa ed indelebile su sarcofagi egizi, sculture in pietra e tele dell'Ottocento, danneggiandole gravemente. Secondo il tabloid, l'autore dell'atto vandalico sarebbe un complottista antisemita di 39 anni, Attila Hildmann, che in passato aveva definito il Museo di Pergamo come un trono di Satana. L'uomo, uno chef vegano già noto alle forze dell'ordine per aver partecipato a numerosi raduni di negazionisti del coronavirus, è considerato una celebrità da chi ne condivide le idee e il suo canale pubblico su Telegram ha oltre 100.000 follower. Rintracciati tutti i visitatori del museo di quel giorno dagli inquirenti affinché possano dare il loro contributo alle indagini. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport, il calcio. Nei gironi di Champions League, vittorie per la Lazio 3-1 all'Olimpico contro il Borussia Dortmund e la Juventus 2-0 a Kiev contro la Dinamo. E stasera invece tocca alle altre due italiane, Inter e Atalanta. Ne parleremo ancora più tardi nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Torneremo a parlare delle ordinanze che via via si stanno prendendo nelle regioni italiane. 349-238-6666. A tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza Covid, governo al lavoro su un protocollo per le nuove regole nelle regioni. Speranza invita a evitare spostamenti inutili. Piemonte e Liguria, via con la didattica a distanza al 50%. In Lombardia ha varato poco fa il coprifuoco dalle 11 di sera alle 5 di mattina. Al via le demolizioni di altri 8 tra capannoni e villette dei Casamonica a Roma, raggi avanti con la legalità. La app Immuni scaricata da 9 milioni di italiani, pochi i casi rivelati. In Germania 20 milioni di download e 10.000 i casi scoperti. Ne parliamo tra poco. 13:17 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, ci sono novità, l'abbiamo detto poco fa, per quanto riguarda la regione Lombardia è stata emanata l'ordinanza, ne abbiamo appena parlato, che prevede un coprifuoco sostanzialmente dalle 11 di sera alle 5 del mattino. Ordinanze che sono state invece firmate già ieri sera, per esempio in Piemonte. Parliamo di questo con il presidente della regione Alberto Cirio, che è con noi. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora Cirio, tra l'altro la vostra regione, ne parleremo magari anche tra un attimo, ha, diciamo, per quanto riguarda la capienza dei posti letto negli ospedali, siamo già in alcuni casi a livelli quasi a livello di soglia, insomma, no? E quindi c'è anche questa preoccupazione. Prima però vediamo come si sta cercando proprio di intervenire per cambiare il corso delle cose. Cosa prevede la vostra ordinanza? Ma la nostra innanzitutto è un'ordinanza chirurgica, cioè un'ordinanza che, confortata dal servizio di epidemiologia della regione Piemonte, ci fa intervenire laddove ci sono i problemi, per evitare un lockdown generalizzato e per evitare che a pagare siano attività che non hanno nulla a che fare col rischio contagio, parlo bar, ristoranti, negozi. Noi siamo intervenuti in due realtà: uno, i trasporti scolastici; due, i centri commerciali. I trasporti scolastici, è inutile far finta di niente e tapparsi gli occhi. In Italia i ragazzi quando entrano a scuola sono sicuri, ma non sono sicuri sul pullman che li porta e sul pullman che li porta a casa. Allora in Piemonte non abbiamo atteso, siamo intervenuti d'accordo con l'ufficio scolastico regionale. Da lunedì verrà alternata per i 4 anni delle superiori, quindi non il primo ma dal secondo al quinto, una didattica a metà a distanza e metà in presenza. Quindi scuole aperte, però andando a scuola con questo meccanismo per cui una settimana la fai in DAD, cioè didattica a distanza, e una settimana in presenza, noi alleggeriamo il traffico potenziale dei ragazzi che prendono il pullman per andare a scuola di 70.000 unità al giorno. Il secondo elemento di rischio erano i centri commerciali. I centri commerciali sono chiusi sabato e domenica da questa settimana, anche un po' in collegamento con quelle che sono le misure della Lombardia, nello sì. specifico sui centri commerciali, perché il Piemonte i centri commerciali più importanti che ha li ha a confine con la Lombardia, e gli outlet intendo, e quindi è evidente che se li chiudono loro saremmo diventati gli unici aperti con un bacino di utenza di milioni di persone. Quindi due misure chirurgiche, vuol dire che tutto il resto continua a funzionare e vuol dire che coi sindaci del Piemonte abbiamo dato la possibilità di integrare con sì. le loro ordinanze in modo specifico nei comuni che serve. Mi sembra che questo fosse anche proprio nello spirito del DPCM approvato domenica scorsa e valido da lunedì, cioè dare spazio alle ordinanze locali, alle regioni, ai sindaci. Inizialmente alcuni sindaci avevano espresso perplessità perché dicevano dateci i mezzi per poter fare approvare poi per esempio restrizioni per quanto riguarda zone della movida da chiudere eccetera. Invece la sua regione, la Liguria, adesso anche la Lombardia colgono questa finestra, questa opportunità e intervengono, come dice lei, con delle misure mirate. Per quanto riguarda la scuola, la domanda che le faccio è: riuscirete a ottenere questo risultato? Perché sappiamo che la ministra Azzolina si era in qualche modo opposta, aveva chiesto rispetto all'autonomia scolastica, la scuola in presenza doveva rimanere prioritaria, eccetera. Posto il fatto che sembra ragionevole che si intervenga adesso per evitare un lockdown tra 2 settimane, siamo sicuri che da lunedì le scuole adotteranno questo criterio, Cirio? Saranno sicure, perché abbiamo lavorato bene e ho trovato disponibilità nell'ufficio scolastico regionale, che ha annunciato insieme a me l'ordinanza ieri sera. Ho sentito il ministro Azzolina che l'ha condivisa e quindi abbiamo una piena unità di intenti e di visione su un meccanismo che è giusto. Noi mandiamo a scuola in presenza sempre, teniamo le scuole aperte per l'infanzia, per le elementari, per le medie e per il primo anno delle superiori, perché i ragazzi vivono un anno delicato. Ma dal secondo al quinto alterniamo DAD a presenza e quindi non chiudiamo nessuna scuola, ma Vediamo se abbiamo ancora la linea con Cirio, perché la domanda che volevo farle è questa. Cirio, è caduta la linea? Mi fanno cenno alla regia che è caduta la linea. Allora niente, non c'è tempo, sono minuti anche un po' concitati perché chiaramente sono ordinanze che sono state appena presentate e quindi insomma il tempo è quello che è. La domanda anticipata era questa, la faccio perché è importante. E si è perso tempo in Piemonte per quanto riguarda la ristrutturazione della rete ospedaliera, perché in questa regione siamo già quasi al 40% di posti letto occupati per quanto riguarda ricoveri Covid, quasi un 20% invece di saturazione delle terapie intensive. Sono numeri che cominciano già a preoccupare, e la regione Piemonte ha un tasso inferiore alla media nazionale di posti letto per abitanti, 8,3 posti letto in terapia intensiva ogni 100.000 abitanti. L'obiettivo dell'Italia è arrivare a 14, quindi diciamo questa domanda rimane così per la prossima occasione. Allora, prima di tornare a parlare di emergenza Covid con, come anticipato anche dai titoli poco fa, un confronto tra l'app Immuni e l'analoga app tedesca, vogliamo però parlare di una importante notizia scientifica di queste ultime ore, e riguarda le attività della sonda NASA Osiris-Rex, che ha agganciato un asteroide risalente a 4,5 miliardi di anni fa, prelevando dei campioni di suolo, quindi un qualche cosa quasi epocale. C'è anche un italiano che fa parte di questa missione, Maurizio Paiola dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Sentiamolo al microfono di Cristina Carpinelli su questo importante traguardo scientifico. Io sono parte del team, sono entrato nel 2017, ho vinto diciamo questo proposal internazionale, l'unico europeo che è riuscito a entrare all'interno della missione. Io ho studiato tutto il ciclo di atterraggio, distribuzione in Italia dei massi sulla superficie per dire sì, possiamo atterrare qui, questo sito è sicuro ingegneristicamente. Questa è una ricerca di una portata incredibile, cioè si è arrivati a toccare materiale risalente di fatto a 4,5 miliardi di anni fa, giusto? Esatto. La ricerca è importantissima perché questi asteroidi sono cosiddetti i mattoni primordiali. Miliardi di questi asteroidi si sono schiantati tra di loro insieme alle comete e hanno portato alla formazione di nuclei o i pianeti stessi. La Terra stessa si è formata così. Ora, nel caso di tutti questi scontri ci sono stati delle briciole, degli avanzi molto molto piccoli, che sono gli asteroidi che noi ora vediamo. Questi avanzi sono materiale vergine, primitivo, diciamo dell'origine del sistema solare, e poter avere poi con tutti le centinaia di laboratori in giro per il mondo fare delle analisi di estremo dettaglio, si può veramente avere un'idea di com'era quel composto organico, quel materiale scuro che abbiamo sulla superficie 4,5 miliardi di anni fa, cioè è una cosa veramente epocale. È con noi Tobias Spiller, corrispondente dall'Italia del giornale, il quotidiano tedesco Faz. Tobias, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo pensato di fare un confronto tra la app italiana Immuni e l'equivalente tedesco, perché per quanto riguarda Immuni abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, abbiamo raccontato dei casi di defiance raccontati ad esempio da Ferruccio Sanza in Liguria, dove c'era uno scollegamento totale con la ASL che non era quasi a conoscenza del funzionamento dell'app. In Italia 9 milioni di download, pochi i casi scoperti, è molto temuta forse questa app, perché cosa succede se divento positivo, no? Non ci sono agevolazioni invece per chi la scarica, tipo agevolazioni per fare il tampone, per fare delle visite, eccetera. Allora forse appunto conviene vedere come sta funzionando in Germania, perché stando ai dati sembrerebbe, Tobias, intanto il numero di download è quasi il doppio, giusto? Sì, al momento il numero ufficiale dell'Istituto Robert Koch di metà ottobre è 19,3 milioni, quasi un quarto della popolazione tedesca. Quasi un quarto della popolazione tedesca, il doppio di chi l'ha scaricata in Italia. Come funziona e come sta funzionando anche? In generale, in questa app certamente non è una cosa magica, perché non è del per fare appuntamenti al medico e cose del genere, ma aiuta comunque al tracing a tracciare i contatti che qualcuno ha avuto, perché in Germania in generale la sanità è privata, così c'è una mutua o un'assicurazione privata che paga la visita al medico, e i medici sono di solito privati, e c'è l'ufficio di sanità pubblica che si deve occupare di epidemia, di vaccinazione e roba del genere, e deve occuparsi della quarantena, dei test, di ordinare qualcuno di rimanere in quarantena e di contattare le persone, anche certamente deve trovare i contatti che qualcuno con i sintomi ha avuto anche 2 giorni prima. E per questa app così facilita le cose. Facilita le cose, certo, perché anche questo è un dato, credo, pubblico, che tu sei in grado di cui sei in grado di renderci conto. Sono stati, diciamo, portati alla luce quasi 10.000 casi. Sì, il punto è che sono tipo 12.000 casi che sono arrivati così alla luce in questo modo, perché altrimenti si fa a mano. Così sono stati assunti migliaia di persone che aiutano adesso al tracciamento delle persone, che a ognuno che si è ammalato chiedono: ma chi hai incontrato negli ultimi 2 giorni? E su questa lista poi bisogna contattarli. Invece l'app facilita le cose. Se uno va al laboratorio a fare il test e anche rivela il codice della sua app, può anche avere il risultato del test anche rimandato sulla sua app. Il punto chiave è quello. Sì. Se uno è positivo tramite l'app o anche tramite contatti al lavoro o in famiglia, ha l'assoluta precedenza per il test, perché c'è assoluta voglia di fare il test entro un giorno per questa persona, perché altrimenti si fa crea ritardi per... Certo, sappiamo che ci sono una serie di difficoltà, di ritardi nel tracciare le persone e anche tempi di attesa per fare il tampone. Ultima informazione che ti chiedo, Tobias Piller: è giusto il fatto, corrisponde al vero il fatto che in Germania chiunque può fare un tampone gratis e anche se non ha avuto contatti, anche se semplicemente per un sospetto o per sentirsi più sicuro? Abbiamo 16 regioni che hanno delle strategie un po' diverse, ma sono anche in competizione in questo. Conosco la situazione della Baviera, dove la strategia è proprio offrire un test a chiunque abbia un dubbio, chiunque voglia avere un test. Se non lo paga la mutua o l'assicurazione privata, paga lo Stato, perché non vogliono che questo sia un criterio di evitare un test, che qualcuno dice: no, non voglio spendere questi soldi. Allora si può fare un test comunque, chiunque abbia un dubbio. Si può fare dei test per operai che, per esempio, in vigna che arrivano dall'estero, bisogna testarli tutti. E si può anche ci sono offerte per test per tutti gli insegnanti o persone che lavorano, per esempio, in ospedale, quando mai hanno voglia, e anche quando c'è un'esplosione di epidemia in un certo punto critico, si fa il test a tutti. Grazie Tobias Piller, corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung. 13:30, facciamo un piccolo break, poi torniamo tra poco. 349-238-6666, se ci volete raccontare la vostra esperienza con l'app Immuni, per esempio, è una buona occasione. 9 milioni di download, quindi molti di voi ce l'avranno, qualcuno avrà qualche cosa forse da raccontarci. Torniamo parlando del... le operazioni iniziate oggi a Roma per l'abbattimento delle ultime ville, delle ulteriori ville dei Casa Monica, quindi un colpo ai clan, la soddisfazione del sindaco di Roma Raggi, che parla di un ritorno della legalità a Roma, e noi ne parleremo con Federica Angeli, giornalista di Repubblica, minacciata dai clan, a tra poco. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, governo al lavoro su un protocollo per le nuove regole nelle regioni. Piemonte e Liguria via con la didattica a distanza al 50%, centri commerciali chiusi nel fine settimana. In Lombardia varato il coprifuoco dalle 11 di sera alle 5 di mattina. Al via le demolizioni dei capannoni e delle villette dei Casa Monica a Roma. Ne parliamo tra poco con la giornalista minacciata dai clan, Federica Angeli. Allora, prima di arrivare al punto di Alberto Rioli e anche all'intervista con Federica Angeli, un rapido sguardo ai vostri messaggi, che sono arrivati molti sulla app Immuni e anche sul confronto con l'equivalente tedesco. Amo la Merkel, dice questo ascoltatore, qui ormai hanno chiuso anche i medici di base. Vabbè, il merito dell'app tedesca è quella di avere portato alla luce oltre 10.000 casi in Italia, dati ufficiali alla mano di pochi giorni fa, erano stati 13 i casi portati alla mano, con un numero di download che però è paragonabile. Noi abbiamo avuto 9 milioni, la Germania è il doppio, ma una popolazione più ampia. Scusate, dice un ascoltatore, non si può obbligare chi fa il tampone a scaricare la app? Proposte. Ed effettivamente, leggiamo un po' di retroscena delle ultime ore sui giornali, sembra che Conte sia intenzionato a rilanciare l'obbligatorietà della app. Avrebbe potuto già, e l'ho già detto in conferenza stampa domenica sera di fronte ai soliti milioni di italiani appesi per l'ultimo DPCM, dire scaricatevi la app, poteva essere un'occasione che si è persa. Maria Letizia scrive, è vero che l'app non è all'altezza, ma se invece di boicottarla l'avessimo scaricata tutti prima, avremmo trovato i difetti e avremmo potuto porre rimedio. Credo che siamo ancora in tempo, rilancio il mio appello, io l'ho scaricata subito, fatelo, ci vuole poco, è anonima e ci può dare una mano ad evitare lockdown. Alberto Rioli. Il punto di Alberto Rioli. Se il mitico mercato è un'entità che ha un senso e una sua propria riconoscibilità, quello che è accaduto con la prima emissione di Eurobond destinati a finanziare i piani per la cassa integrazione in Europa è stato davvero rilevante. Ieri era atteso il debutto del primo strumento di condivisione del debito europeo, chiamiamolo il primo titolo di Stato europeo. Un fatto rivoluzionario dopo i molti, moltissimi anni, ricorderete, passati a gestire le guerre di religione su Eurobond sì o Eurobond no. Ebbene, per il debutto, per le prime due emissioni dei due bond europei destinati al cosiddetto piano SURE, l'Europa ha raccolto 17 miliardi e all'inizio ne prevedeva 15. Ma ciò che più conta è che a fare domanda per avere quei titoli si sono affacciati oltre 1.000 investitori istituzionali da mezzo mondo e hanno avanzato prenotazioni per oltre 233 miliardi complessivi. Insomma, una domanda che è stata quasi 14 volte l'offerta. E il segnale che conta adesso è un altro, è politico e non finanziario. È il riconoscimento che l'Europa, quando si muove come entità unica, convinta e solidale, è imbattibile e torna ad avere quel fascino e quella forza che purtroppo noi europei per primi tendiamo a dimenticare. Buongiorno a Federica Angeli, cronista della Repubblica. Benvenuta Federica. Buongiorno, ciao. Grazie. Allora, parliamo di questa nuova tappa nel, diciamo, abbattimento delle costruzioni, alcune abusive, le villette, i capannoni dei Casa Monica a Roma. È un'iniziativa, lo voglio ricordare, dell'Osservatorio Territoriale della Sicurezza del settimo municipio di Roma, diretto e coordinato dalla Prefettura di Roma. Federica, sul significato simbolico non ci sono dubbi, no, di questa iniziativa a due anni, tra l'altro, dagli altri abbattimenti, però vale la pena ricordarlo, perché si tratta di interessi che in passato erano quasi mai stati toccati. Esatto, io diciamo che ho accolto con molta soddisfazione questa mattina la notizia, perché veramente mi sembra la prosecuzione di un lavoro appunto tanto tempo fa, perché leggo, no, commenti del tipo siamo in campagna elettorale, indubbiamente però per pianificare e predisporre un sequestro e un abbattimento ovviamente ci vogliono mesi e mesi, quindi questo è il risultato di mesi di lavoro e di scelte di veramente dar contro a questi clan intoccabili per anni. Quindi secondo me è un'operazione molto molto importante. Ecco, dal punto di vista anche poi dell'importanza concreta, quantitativamente, quanto questa operazione colpisce i clan, quanto li fa arretrare, perché insomma di strada ne è stata fatta da quando, per esempio, insieme al collega Carlo Bonini avete fatto partire la prima inchiesta giudiziaria su un altro clan, erano i Fasciani, ma gli intrecci tra criminalità e gestione del potere, il governo locale a Ostia, era la stessa trama, insomma. Quanto incidono realmente queste operazioni nel fatto che il clan possano arretrare a Roma? Guarda, paradossalmente è brutto dirlo, però loro come ragionano, gli fa più male un'operazione di questo tipo o un sequestro preventivo, il congelamento dei loro conti correnti, piuttosto che un arresto in carcere, perché purtroppo per loro sono diventate medaglie nella loro mentalità, mentre a noi ovviamente, persone che percepiamo la legalità, fa piacere anche l'arresto, cioè capiamo l'importanza, certo, anche dell'arresto, per loro è motivo di vanto, è una medaglia. Quando gli inizi a toccare i soldi e la casa, veramente gli dai un gli togli la terra sotto i piedi. Perché naturalmente per loro anche, diciamo, motivo di ostentazione, di un lusso, perché queste ville avevano la piscina, ora pacchiano quanto vogliamo a nostro gusto. Sì, però sono una dimostrazione di potenza esibita e quindi di rubinetti d'oro, di forza, insomma, cioè, voglio dire, esatto. Quindi gli fa perdere anche agli occhi del quartiere quel potere che sembrava intoccabile, quindi indubbiamente operazioni di questo tipo non possono che essere elogiate, ecco. Proprio ieri, tra l'altro, c'è stata l'udienza al processo bis, se ho letto bene, per quanto riguarda, in cui tu sei testimone contro Armando Spada, l'altro clan, accusato di minacce nei tuoi confronti, di tentata violenza. Davanti al tribunale c'era anche la sindaca Raggi, c'erano rappresentanti del sindacato dei giornalisti, tanta solidarietà nei tuoi confronti. Com'è andata? Guarda, è andata bene perché fortunatamente si è trovato l'accordo con il legale di Spada per non farmi risottoporre a ore di interrogatorio, ma abbiamo fatto acquisire i verbali di quanto già avevo detto. Armando Spada non è venuto e lo considero, insomma, un successo da questo punto di vista, perché l'altra volta era venuto, ha provato a intimidirmi e ha visto che, insomma, malgrado la sua presenza, io sono andata avanti a parlare. Purtroppo andiamo incontro alla prescrizione. È stato importante per me vedere però, ecco, i giornalisti, il sindacato dei giornalisti, l'associazione Noi, la sindaca al mio fianco, perché passi il messaggio di un noi e di una forza che, se non riconosciuta dentro i tribunali per via appunto della prescrizione, dà però la misura di un risveglio, no? Certo. Inizialmente ero sola fuori quel tribunale, nel rispetto ovviamente degli assembramenti, però c'era tanta gente a sostenermi. Grazie Federica Angeli, grazie davvero di tutto quello che hai fatto e che stai facendo ancora. Allora, stasera però si giocano le partite di Champions League, torna il calcio italiano e torna la voce di Carlo Genta. Carlo. Sì, tornato ieri sera, peraltro molto bene il calcio italiano in Champions con le vittorie della Juventus e della Lazio. Questa sera tocca all'Inter e all'Atalanta, entrambe alle ore 21. Con le due squadre dai nomi impronunciabili. Sì, te li ridico, così poi d'impari ti interrogo. Allora, l'Inter gioca contro il Borussia Mönchengladbach, squadra tedesca, mentre l'Atalanta gioca in Danimarca sul campo di una rookie, cioè di una squadra alla prima apparizione in Champions League, è il Midtjylland. Ecco. Borussia, un avversario abbastanza tosto per l'Inter, che ricordiamo lo stesso girone del Real Madrid, mentre per l'Atalanta dovrebbe essere più semplice, un atterraggio un po' più morbido. Poi ti interrogo sui nomi comunque. Va bene, domani però. Domani. Dammi tempo, 24 ore. Grazie Carlo, appuntamento col pomeriggio sportivo dopo il giro delle 14 naturalmente. Noi facciamo un piccolo break e poi siamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.